ad alta voce. Rolando Ravello legge Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, traduzione di Tommaso Pincio. Proveniva musica dalla casa del mio vicino nelle sere d'estate. Nei suoi giardini blu uomini e ragazze andavano e venivano come falene tra il mormorio, lo champagne, le stelle. Al salire della marea di pomeriggio, osservavo gli ospiti tuffarsi dalla torre della sua zattera o prendere il sole sulla sabbia calda della spiaggia mentre le sue due barche a motore fendevano le acque dello stretto, trascinando acquaplani sopra cataratte di spuma. Nei fine settimana, tra le 9 del mattino e ben oltre la mezzanotte, la sua Rolls Royce si trasformava in un omnibus adibito al trasporto di comitive tra la villa e la città, mentre la sua giardinetta sgambettava, gialla e frenetica come un insetto, per andare incontro a ogni treno che arrivava. E il lunedì, 8 domestici, tra cui un giardiniere aggiuntivo, sgobbavano tutto il giorno con scope, spazzoloni, martelli e tosatrici per rimediare le devastazioni della notte precedente. Ogni venerdì, 5 casse di arance e limoni arrivavano da un fruttivendolo di New York. Ogni lunedì, quelle stesse arance e quegli stessi limoni lasciavano la porta sul retro in una piramide di bucce spolpate. C'era una macchina in cucina in grado di estrarre il succo di 200 arance in mezz'ora, a condizione che un piccolo tasto venisse premuto 200 volte dal pollice di un maggiordomo. Almeno una volta ogni 15 giorni, un intero reparto di fornitori si presentava con centinaia di metri di tela e luminarie colorate in quantità sufficiente a trasformare in un albero di Natale l'enorme giardino di Gatsby. Sui tavoli del buffet, guarniti di sfavillanti antipasti, arrosti di prosciutto aromatizzato erano assiepati attorno a insalate dalle composizioni multicolori in compagnia di rustici con la salsiccia e tacchini ricoperti, come per incanto da una scura patina dorata. Nel salone principale era installato un bancone da bar con un vero poggiapiedi d'ottone, e stipato di gin e liquori e cordiali dimenticati da tanto di quel tempo che la gran parte degli ospiti di sesso femminile erano troppo giovani per distinguere uno dall'altro. Alle 7 l'orchestra è già al suo posto. Non una miseria di 5 elementi, ma un tripudio di oboe, tromboni, sassofoni, viole, cornette, tamburi, grandi e piccoli. A quest'ora anche gli ultimi bagnanti sono rientrati dalla spiaggia e stanno vestendosi al piano superiore. Le auto giunte da New York sono parcheggiate su 5 file nel viale e sale, saloni e verande sono già un trionfo di colori primari, capelli acconciati in nuove strane fogge e scialli ben oltre i sogni di Castiglia. Il bar è in pieno fermento e vassoi ricolmi di cocktail fluttuano incessanti per il giardino, finché l'aria non ferve di chiacchiere, risa, frecciatine disinvolte, presentazioni subito dimenticate e incontri entusiastici tra donne che ignoravano i rispettivi nomi fino a un attimo prima. Le luci si fanno più brillanti ora che la terra si allontana dal sole e l'orchestra esegue musica in tono con i cocktail ambrati e il coro di voci tocca note più alte. La risata si fa più facile, minuto dopo minuto, fuoriesce con prodigalità, viene elargita a qualunque parola un minimo euforica. I crocchi cambiano con maggiore rapidità, si gonfiano di nuovi arrivati, si disfano e si riformano nel tempo di un respiro. C'è la gira in tono, ragazze sicure di sé che vanno zigzagando qua e là tra altre ragazze, più corpulente e stanziali di loro, diventano per un momento repentino e giulivo il centro di un gruppo e quindi, eccitate dal successo, scivolano via lungo il mare, instabile, dei volti e delle voci e dei colori, sotto la luce in costante mutamento. D'un tratto, una di queste zingare, avvolta in una tremula opalescenza, afferra un cocktail a mezz'aria, lo ingolla con coraggio e, muovendo le mani come frisco, si mette a danzare, solitaria, sul palco di tela. Un attimo di silenzio. Il direttore dell'orchestra ha la premura di cambiare il ritmo per lei e subito si leva un brusio insistito non appena si sparge la voce infondata che è la controfigura di Gilda Gray, delle Follie. La festa è iniziata. Credo che fossi uno dei pochi ospiti realmente invitati la prima sera che mi recai a casa di Gatsby. Le persone non erano invitate. Ci andavano. Salivano sulle automobili che le portavano a Long Island e in qualche maniera si ritrovavano davanti alla porta di Gatsby. Una volta lì venivano presentate a Gatsby da qualcuno che lo conosceva, dopodiché si attenevano alle regole di comportamento confacenti ai Luna Park. Certe volte venivano e se ne andavano senza nemmeno incrociare Gatsby. Si presentavano al ricevimento con un candore che costituiva il loro biglietto d'ingresso. Io ero stato davvero invitato. Uno chauffeur in uniforme turchese attraversò il mio prato di prima mattina quel sabato, recando un biglietto straordinariamente formale del suo datore di lavoro. Gatsby sarebbe stato immensamente onorato, mi si diceva, qualora avessi accettato, di unirmi alla festicciola prevista per la serata. Mi aveva visto diverse volte e aveva intenzione di farmi visita da tempo, ma una bizzarra combinazione di circostanze lo aveva trattenuto. Firmato J. Gatsby, con mano maestosa. Vestito di tutto punto, in pantaloni di flanella bianca, mi inoltrai nel giardino del mio vicino poco dopo le 7 e vagai alquanto in imbarazzo tra turbini e mulinelli di gente che non conoscevo, sebbene di quando in quando intravedessi un viso che avevo notato sul treno locale. Restai subito colpito dal gran numero di giovani inglesi, tutti abbigliati a modo, tutti dall'aria un tantino affamata e tutti che parlavano con voce bassa e seria ad americani prosperi e coi piedi ben piantati in terra. Ero certo stessero vendendo loro qualcosa, titoli azionari, polizze assicurative, automobili. Perlomeno erano mossi dalla consapevolezza quasi straziante della gran quantità di denaro presente in quei paraggi e dalla convinzione che sarebbe stato loro se solo avessero trovato le parole giuste. Non appena arrivai feci un tentativo di presentarmi al padrone di casa, ma le due o tre persone cui chiesi dove potessi trovarlo mi fissarono così stupefatte e negarono con tale veemenza la benché minima conoscenza dei suoi spostamenti che mi dileguai in direzione del tavolo dei cocktail, il solo posto nel giardino dove un uomo non accompagnato potesse indugiare senza sembrare solo e fuori posto. Faceva una bella sbronza, Jordan Baker uscì dalla casa e si fermò in cima a gradini di marmo, piegandosi un poco all'indietro e osservando con sprezzante interesse il giardino. Benvenuto o no? Ritenni necessario unirmi a qualcuno prima di cominciare a rivolgere qualche battuta cordiale alla prima persona che mi fosse sfilata davanti. Salve, tuonai, avanzando nella sua direzione. La mia voce risuonò innaturalmente alta per il giardino. Immaginavo che vi avrei incontrato, rispose lei in tono distratto mentre mi avvicinavo. Rammentavo che vivete qui accanto. Mi prese la mano in maniera impersonale, come per promettermi che si sarebbe dedicata a me tra pochissimo, e diede ascolto a due ragazze con vestiti gialli e identici che si erano fermate ai piedi della scalinata. «Salve!» gridarono all'unisono. «Ci dispiace che non abbiate vinto!» Si riferivano al torneo di golf. Jordan aveva perso nelle finali, la settimana precedente. «Voi non ci riconoscete», disse una delle ragazze in giallo, «ma ci siamo incontrate qui circa un mese fa». «Vi siete tinte i capelli?» notò Jordan. E io trasalì, ma le ragazze si erano allontanate indifferenti e le parole furono indirizzate alla luna precoce, estratta, senza dubbio, alla stessa maniera della cena da una cesta di vivandieri. Il braccio esile e dorato di Jordan poggiato sul mio, discendemmo i gradini e camminammo lentamente per il giardino. Un vassoio di cocktail fluttuò verso di noi nel tramonto e ci sedemmo a un tavolo con le due ragazze in giallo e tre uomini, ognuno dei quali si presentò come signor non so chi. «Venite spesso a queste feste?» chiese Jordan alla ragazza che aveva accanto. «L'ultima volta è stato quando vi ho conosciuta», rispose lei con voce pronta e sicura. Si rivolse alla compagna. «Non è stato così anche per te, Lucille?» «Lo era stato anche per Lucille». «Mi piace venirci», disse Lucille. «Non vado mai a quel che faccio, così mi diverto sempre. La volta scorsa mi sono strappata il vestito con una sedia e lui mi ha detto non mi visto. Per una settimana mi sono vista recapitare un pacco da Croirier con dentro un nuovo abito da sera». «L'avete tenuto?» domandò Jordan. «Ma certo, stavo per metterlo stasera, ma era troppo grande di seno e andava aggiustato. Era blu petrolio con perline lavanda. $265. «C'è qualcosa di strano in un tipo che fa una cosa simile», disse l'altra ragazza infervorata. «Non vuole problemi con nessuno». «Chi?» domandai. Gatsby, qualcuno mi ha detto... Le due ragazze e Jordan si chinarono una verso l'altra per condividere l'indiscrezione. Qualcuno mi ha detto che si pensa abbia ucciso un uomo una volta. Un brivido ci percorse tutti. I tre signor non so chi si protesero anche loro, bramosi da ascoltare. Non credo si tratti tanto di quello, opinò Lucille, scettica. Più che altro pare che abbia fatto la spia per i tedeschi durante la guerra. Uno degli uomini annuì col capo. L'ho sentito dire da un tale che sapeva tutto di lui, perché sono cresciuti insieme in Germania, ci assicurò deciso. No, disse la prima ragazza, non può essere, era nell'esercito americano durante la guerra. Si chinò in avanti con entusiasmo mentre la nostra credulità tornava a propendere per lei. Provate a guardarlo quando è sicuro di non essere osservato. Ha ucciso un uomo. Sarei pronta a scommetterci. Rabbrividì anche Lucille. Ci voltammo tutti e cercammo Gatsby con lo sguardo. A testimoniare in favore delle romantiche congetture che ispirava, c'erano le chiacchiere che sul suo conto facevano anche coloro che trovavano risibile che a questo mondo si dovesse per forza chiacchierare di qualcuno. La prima cena, ne sarebbe seguita un'altra trascorsa a mezzanotte, venne servita in quel momento e Jordan mi invitò a unirmi alla sua comitiva disposta attorno a un tavolo sul lato opposto del giardino. C'erano tre coppie maritate e l'accompagnatore di Jordan, un eterno studente incline alle pesanti insinuazioni e in tutta evidenza convinto che presto o tardi Jordan si sarebbe concessa a lui in qualche misura. Anziché gironzolare, questa comitiva aveva preservato una distinta omogeneità assumendosi il compito di rappresentare la contegnosa nobiltà del contado. Era la East Egg che guardava con sufficienza West Egg, mantenendosi a debita distanza dalla sua spettroscopica dissolutezza. «Andiamocene», sussurrò Jordan dopo una mezz'ora sprecata in smancerie. «Si respira un'aria troppo compita per i miei gusti». Ci alzammo e mi spiegò che saremmo andati in cerca del padrone di casa. Disse di non averlo conosciuto di persona e che la cosa la metteva a disagio. Lo studente annuì in modo cinico e malinconico. Il bar, il primo posto in cui demmo un'occhiata, era affollato, ma Gatsby non c'era. Jordan provò a scorgerlo dall'alto della scalinata, ma senza successo, e non era nemmeno sulla veranda. Giusto per tentare, varcammo la soglia di una porta dall'aria imponente ed entrammo in una vasta biblioteca in stile gotico, rivestita di pannelli intagliati di quercia inglese, e trasportata probabilmente di sana pianta dalle rovine di qualche maniero oltreoceano. Un corpulento uomo di mezz'età con un paio di occhialoni da civetta sedeva, un po' intontito dall'alcol, sul bordo di un grande tavolo e fissava con concentrazione instabile gli scaffali stipati di libri. A nostro ingresso volteggiò eccitato su se stesso e scrutò Jordan da capo a piedi. «Che ne pensate?» domandò con impeto. «Riguardo cosa?» L'uomo sventolò la mano in direzione degli scaffali. «Di questo. In effetti non è necessario che vi accogliate il disturbo di accertare. L'ho accertato io. Sono veri». «I libri?» annuì. «Veri, sotto ogni aspetto, con tanto di pagine e tutto il resto. Pensavo fossero di un bel cartone resistente, e invece sono veri, pieni di pagine. Ecco, lasciate che vi mostri». Dando per scontato il nostro scetticismo, si avventò sulla libreria e tornò con un volume delle conferenze di Stoddard. «Vedete!» esclamò trionfante. «È roba stampata, autentica. Mi aveva tratto in inganno. Questo tipo è un vero Belasco, un trionfo. Che accuratezza, che realismo. Ha capito anche quando fermarsi. Non ha tagliato le pagine. Ma che volete di più? Cos'altro vi aspettate?» Mi strappò di mano il libro e si affrettò a riporlo sullo scaffale, bofonchiando che qualora un solo mattone fosse stato rimosso, l'intera biblioteca avrebbe potuto crollare. «Chi vi ha portato qui?» domandò. «O ci siete venuti da soli? Io sono stato portato. Quasi tutti ci vengono perché li porta qualcuno». Jordan lo guardò attenta e divertita senza rispondere. «Mi ha portato una donna di nome Roosevelt», seguitò. «La moglie di Claude Roosevelt. La conoscete? Ho fatto la sua conoscenza, non ricordo più dove, ieri sera. Con oggi fa giusto una settimana che sono ubriaco e ho pensato che una sosta in biblioteca potesse farmi passare la sbornia. Un tantino, mi pare. Non posso ancora affermarlo con certezza. Sono qui da appena un'ora. Vi ho detto dei libri? Sono veri, sono... Ce l'avete detto, sì». Ci stringemmo la mano con solennità e tornammo fuori. Ora si danzava sul telone in giardino. Uomini attempati spingevano all'indietro il corpo di giovanissime ragazze in un vorticare incessante e sgraziato. Coppie di classe superiore, seguendo la moda, erano strette in sinuosi abbracci agli angoli della pista. E un gran numero di ragazze non accompagnate danzava in solitudine o liberava per qualche istante l'orchestra dal peso di un banjo o della batteria. Quando giunse la mezzanotte, l'ilarità ormai era aumentata. Un rinomato tenore aveva cantato in italiano e un famoso contralto aveva cantato del jazz. E tra un numero e l'altro c'era chi andava cimentandosi in proprie esibizioni per tutto il giardino, mentre scoppi di risa, felici quanto vacue, si levavano nel cielo estivo. Un paio di gemelle da palcoscenico, che risultarono essere le ragazze in giallo, fecero un numero travestite da bambine e lo champagne fu servito in bicchieri più grandi delle ciotole per sciacquarsi le dita. La luna era più alta nel cielo e sullo stretto galleggiava un triangolo di scaglie argentate che tremolava un poco allo stillicidio duro e metallico dei banjo sul prato. Thank you.